Ci abbiamo assistito alla morte del calcio, perché se una panchina può annullare un gol, basta, è finita. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Qualcosa sì, però non posso dire niente adesso. Un treno alle 15. E l'altro? Ce ne sono altri due di treni però. Ah, tenetemi informato, ciao. Va bene, ciao. Daniele, ti stai mai convenendo? Sì, scusa, non capisco. Sono ancora qua. E che ci vuole? Ma che c'è? Un po' le spiego. È a posto. È a posto. Poi le dico come, è a posto. Stiamo lavorando sul treno di. Venerdì. Sì, va bene. Ciao. Mamma. Ciao. Ovviamente Pulvirenti e Dellicarri, che avete ora sentito presidente e direttore sportivo del Catania, non fanno i ferrovieri. No, il trasporto su rotaia è un'altra cosa. È escluso. Buongiorno. Ma dai, ma che estate sarebbe senza scandali, una noia mortale. Mentre il fronte delle scommesse, il solito fronte delle scommesse langue, oppure potrebbe ritornare in gioco. Ecco il Catania che si sarebbe comprato 5 partite per rimanere in Serie B. E allora Pulvirenti, Dellicarri, Di Luzio, dirigente del Pescara, Arbotti, procuratore agente FIFA, Impellizzeri, che qui torna al fronte delle scommesse, che è un agente di scommesse sportive, tutti ammanettati, perché c'è questa puzza di combine per 5 partite, cioè quelle di aprile, che sarebbero Varese Catania 0-3, Catania Trapani 4-1, Latina Catania 1-2, Catania Ternana 2-0, Catania Livorno 1-1, e si sta indagando su una partita di marzo che è Catania Avellino 1-0. Se non ti basta, te ne faccio sentire un'altra. Dai, sentiamo. Dellicarri, Di Luzio, poi Arbotti, lo stesso Di Luzio che è dirigente del Pescara. Arbotti, procuratore FIFA, e Di Luzio, e poi Impellizzeri, cioè l'agente delle scommesse sportive, e Pulvirenti. E vabbè, ma hai visto la classifica? Bene. È la prima volta che il Catania ha avuto 35 partite di salto. Alle 13 parto. Alle 13. Ho fatto questa scelta. Quello delle 15 niente? No, perché ho dovuto fare una scelta, nel senso che in base, diciamo, alla situazione che aveva a disposizione non ce la facevo. Allora, andiamo nei playoff, andiamo! Usaccio, ma... Poi dopo ti racconto una cosa, è il numero, è avanti, 4 vittorie consecutive. Alla grande. Stiamo a volando. Volando. Alla grande. Vabbè. Questo. Questo lo vediamo poi. Bisogna capire come si volava, insomma, se col doping o meno. Poi ci sarebbero giocatori corrotti, 10.000 euro a testa per azzottarsi le partite. Ci sono tutte queste vicende. Fatto sta che c'è questa inchiesta ormai ad un punto avanzato. Così ci divertiamo di più, no? O no? Io non amo tutta la politica attorno al calcio, e gli scandali mi fanno schifo, mi mettono un senso di pennica, mi annoiano. Detto questo, è chiaro che come sempre la presunzione di innocenza, ci mancherebbe altro, perché non è che si può fare a intermittenza o a orologeria, quindi qui, fino a prova contraria, sono tutti innocenti ad oggi. Però certo, insomma, le intercettazioni fanno pensare che ci sia stato, almeno che si siano attivati per poter fare delle cose. Qualcosa abbiano non sarebbe la prima pensato. Volta. L'altro giorno stavo leggendo un libro, fra l'altro bello, in qualche modo anche romantico, di Arcadio Spinozzi, ex capitano della Lazio negli anni '80, sì. Che faceva, senza dirlo, insomma, faceva però delle insinuazioni alla promozione in Serie A della Lazio di quell'anno lì, con lui stesso che in qualche modo aveva detto: guarda, questa cosa al suo presidente, che era Sbardella, questa cosa è assolutamente una cosa illegale, non giusta, eccetera, eccetera. Aveva detto: l'unica possibilità che abbiamo per salire a un certo punto, a 4 giorni dalla fine, era insomma muoversi a livello politico e a livello di rapporti con le altre squadre. E poi insomma, secondo quella, la ricostruzione dello stesso Spinozzi, poi alla fine in qualche modo queste due cose sono successe con una serie di episodi arbitrali, più di un episodio che riguarda un giocatore della Cavese venduto. Detto questo, è solo un esempio, insomma la storia del calcio è piena purtroppo di questo genere di situazioni, e però ciò toglie che insomma nel momento nel quale poi c'è un'indagine, c'è la magistratura che li becca, è giusto, certo, che venga fatta piena luce, no, come si diceva una volta. Adesso siamo già al processo di pubblica piazza, più che nella, sì, vabbè, nel questo vale, questo è normale, purtroppo. Questo vale sempre, me lo ricordiamo normale. Oggi veramente a costo di sembrare naif, ridicoli, ingenui, questo vale sempre. Cioè vale sempre anche di fronte all'intercettazione più chiara, più eclatante, o al sospetto più forte. Vale anche nel caso della FIFA, vale anche nel caso di Blatter, che pure uno che non ci sta simpatico. Ma vale, no, nel ecco. Diritto, Pierluigi Pardo, si chiama presunzione di non colpevolezza. Perché secondo me noi che facciamo, abbiamo questa responsabilità e anche questo piacere, tra virgolette, questo potere di dire delle cose, di essere pagati per poter esprimere delle opinioni, dobbiamo essere molto attenti e molto rispettosi di tutti. Questo e soprattutto vale del per diritto. Tutti. Perché i processi mediatici oggi sappiamo spesso che sono certe volte molto più pesanti dei processi reali. Sì. Nel senso che quando sei sputtanato come immagine è finita. Detto questo, insomma, intercettazioni ci sono, la magistratura sta indagando. Detto questo, domani la prima pagina, se poi sono innocenti, è un trafiletto. È un trafiletto, questo lo sappiamo. Questo insomma, però è pure vero che insomma, non seguire questo episodio. Ma bisogna affidarsi della magistratura, non è che abbiamo molte altre soluzioni. Assolutamente. Bisogna aspettare che la magistratura faccia il suo corso e decida se archiviare oppure se portare a giudizio e poi al processo arrivare a una conclusione. Ascoltami, amico mio, c'è anche il Parma che scompare in Serie D, sì. Poi c'è invece l'Inter per la quale sul mercato torna al tempo dei balconi, delle fragole, del vino rosso. Beh, della l'Inter primavera e dell'amore. E allora di tutto questo parliamo dopo le 14:30. Avremo un ospite molto importante sul caso del Catania. Ma dopo il traffico vorrei invece allargare un po' il discorso, perché ci sta dentro tutto, no? In tutti i convocati, a proposito 800240024, tutto ci sta dentro, e vorrei parlare invece del meraviglioso inizio di estate dell'Inter. Il treno delle 23, delle 11. Era sicuro. Mo è solo il treno delle 3. Niente, il treno delle 4 o il treno delle 33? Direttissimo, è diretto quello proprio. Il treno delle 33. Tutti convocati. Tutti convocati. Sono Gioffre Condoglia, vi aspetto a San Siro. Niente come esserci. Forza Inter. Questo ciò che Condoglia, è successo. Ma io non ho mai capito questo. Adesso no, mi devi spiegare, ma tu sai parli francese? No. No, c'è questa cosa clamorosa che in francese ci sono tutte le pronunce con, no? Con l'accento finale, con l'accento. E poi però noi quindi diciamo Platini, Condoglia, poi arriva sui Condoglia. Condobbia. Platini. Cioè, Platini. Ma secondo me la spiega qualcuno, Cantona. Non lo so, veramente Ginola. Io no, poi come, Condobbia. Come per le manifestazioni, sai, sono è come i numeri che vengono dati dagli organizzatori, sì, e dalle questure. C'è chi dice erano 200 sotto il balcone, c'è chi dice erano 500. Però insomma, la notizia c'è, cioè, dai, Condobbia che... o Condobbia a questo punto. È un grande acquisto. Come lo chiami in telecronaca? Ma io sarei per Condobbia. Poi anche se io, lui a un certo punto fa un, dice guardate chiamatemi Condobbia, lo chiamiamo Condobbia. E... però insomma a me sembra che l'entusiasmo sia assolutamente condivisibile, giusto, lecito. Insomma l'Inter ha fatto un grande acquisto, in più ha strappato questo giocatore al Milan, l'ha pagato molto sicuramente, è ancora certamente distantissimo dalla Juve. Però ecco qua ci scrivono, fatemi capire, ma Condobbia vale 35 milioni di euro, caro Lori da Milano, ma io ma che ne so, no, nel senso che 35 milioni probabilmente è una quotazione alta, ma è tutto opinabile, è tutto, no? Quanto, certo, vale Pogba? Vale 70, vale 100, vale 120? Dipende da chi vende, da chi compra, dipende dal momento. Secondo te cosa ne pensa del Carossi? Lo chiediamo. Buongiorno. Ciao Aristo. Ciao, buongiorno. Torno ai tempi dei balconi. Convocato anche oggi alla mia Tu sei sempre convocato. Sono a parametro zero. Sei a parametro. No, se è interessante le valutazioni come stavate discutendo voi. Poi bisogna vedere sempre da come si può pensare, perché magari se hai già venduto un giocatore e hai preso magari 20 milioni di euro, a te costa 15. Poi sono d'accordo sulla valutazione, che al giorno d'oggi sono tanti i soldi, quindi bisogna prendere giocatori, bisognerebbe essere un po' più attenti, cercare di pagarli meno. Questo è un dato di fatto. Cos'è, 35 milioni di euro? Sì, forse anche qualcosa in più, mi sembra, no? Sì, con i bonus più sui 40. Però se trovi, magari sei già piazzato uno a 20, ti dici uno giovane, uno in prospettiva, secondo me è un ottimo giocatore. Senza girarci intorno, si parla di cedere Kovacic per 23, secondo me, per quel prezzo. Io ripeto, non è un giocatore che mi fa impazzire Kovacic, cioè, poi diciamo è giovane, ha talento, Pierluigi mi dice ha comunque un difetto e potrei confermare, tocca troppo spesso il pallone, quando ce l'ha tra i piedi, non ha grande personalità forse. E allora cosa bisogna fare? Cioè, non so, dimmelo tu. No, ma io credo che se tu analizzi le caratteristiche, le qualità del giocatore, non si discute. Chiaro che in questi anni io personalmente mi aspettavo di più, conoscendo le sue qualità e le sue caratteristiche, però non è più tempo di aspettare, quindi si devono fare delle scelte e devi soprattutto cercare di vendere dei giocatori per fare casse, per poter cercare appunto di migliorare la squadra, perché chiaramente la Juve sarà ancora la favorita, però da interista secondo me tutti i progetti vanno bene se tu alla fine riesci a fare anche dei risultati positivi, quindi certo, è una svolta, cioè bisogna dar via 7-8 giocatori con i soldi che incassi, fare una campagna acquisti e presentare un Inter, non dico a livello della Juve, però per lottare per i primi tre posti. E poi insomma si parla poco di Miranda, che mi sembra insomma sì, no? Poi non è casuale che si sta intervenendo dietro, perché insomma bene o male davanti con Icardi, che giustamente è stato confermato, perché insomma è il futuro dell'Inter come uomo gol, però dietro qualche problema l'abbiamo avuto, quindi era giusto intervenire lì. Io mi fido del Mancio, perché lo conosco bene, so quello che vuol fare, quindi sono abbastanza fiducioso e di presentare un Inter che sarà pronta a battagliare con tutti e cercare di arrivare nelle posizioni alte. C'è Stefano da Milano che dice: vi prego salutatemi l'unico mio idolo calcistico che ho ancora nel cuore, il Becca, quindi noi siamo, tipo la posta del cuore. Vuoi dire sempre qualcosa? Ma c'è anche Mario che scrive: occhio Becca a dire che sei a parametro zero, che c'è Galliani in giro. Porco cane, no, cioè, è bella quella lì. No, dai, Andresi al Milan? No, assolutamente no. Sono tanti non amici. Non è che adesso Galliani ti prende a parametro zero e poi va in conferenza stampa a dire che sei sempre stato tifoso del Milan fin da bambino. Poi a livello anche delle mie squadre che sto gestendo, quindi ho ottimi rapporti col Milan e tutto, però insomma io faccio parte della generazione che quando hai la fortuna di indossare la maglia dell'Inter ti rimane tutta la vita, quindi... Ti fa effetto Mihajlovic al Milan? Quello sì, però conoscendo che è un simpaticone, lui ha tutte le facce, perché è bravo, cattivo, simpatico, antipatico, quindi è uno che crede al lavoro, quell'opportunità lì non poteva dire di no, anche se lui gli anni che ha fatto da noi, cioè veramente li ha vissuti alla grande. Certo. Però sarà un bel duello, mi divertirò Inter Milan con Mancio e Sinisa di là. Sì, intanto il primo derby sul mercato è stato vinto con grande soddisfazione. L'Inter che nasce mi sembra qualcosa di interessante. Manca probabilmente il famoso top player, no? Ma top player, guarda che è difficile anche trovare il top player, oppure vai con le vagonate di soldi, lo trovi. Bisogna essere bravi e saper scegliere bene e conta ancora di più il lavoro sul campo degli allenatori, perché ultimamente si trascura che vabbè, sono i giocatori. No, io credo che il manico nel calcio di oggi sia ancora determinante, quindi gli allenatori devono essere bravi a elevare proprio il rendimento e le qualità dei giocatori che hanno a disposizione. Tu lo prenderesti Salah, Pierluigi, all'Inter? Perché adesso si parla di questa pista, eh? Beh, insomma, il giocatore c'era ai tempi di Basilea, c'era anche se ha giocato meno ai tempi del Chelsea. L'anno scorso è stato abbagliante nelle prime 10-12 partite, poi un po' calato, però insomma sì, direi di sì. Insomma, mi sembra un giocatore che aumenterebbe il lato, la componente artistica, la componente pazza dell'Inter, quindi insomma è una qualità che serve, soprattutto se vendi Kovacic. Secondo me sarebbe un innesto importante, anche se secondo me è una chiave molto significativa nel reparto dei trequartisti, dei giocatori, dei centrocampisti con caratteristiche offensive. L'ha fatta Mancini l'anno scorso col recupero di Hernández alla fine, perché quello secondo me, per me è un giocatore che può fare la differenza, almeno in Italia è un giocatore che può dare tanto. Certo, poi è invendibile attualmente perché l'Inter l'ha pagato un mucchio di soldi e dovesse venderlo adesso sarebbe una minusvalenza pazzesca, quindi l'Inter ha diversi giocatori sui quali purtroppo ha le mani legate, Beck. Uno è Hernández, uno è Guarín, ma ce ne sono degli altri. Ma secondo me se arrivano delle richieste credo che prenderanno in considerazione qualcosa. No, mi incuriosiva Salah perché insomma voi avete sotto, c'è Hernández, c'è Shaqiri, se arriva il giocatore del Chelsea è chiaro che dovrai prendere in considerazione di dar via qualcuno lì, perché Shaqiri e Salah insieme mi sembra esatto, troppo. Esatto, quello mi sembra, a parte che nel calcio di oggi magari puoi giocare una punta e loro due in appoggio, qui tre centrocampisti, quattro dietro, però avendo anche Hernández, cioè, mi sembra un po' troppo lì con quelle caratteristiche lì. Sono d'accordo. Grazie Beck, ciao, alla prossima. Ciao. Allora, lui è parametro zero ufficialmente sul mercato, il signor Beck. Ma al Milan non ci va. Voglio farti sentire mentre ti faccio notare queste meravigliose pagine 2 e 3 del Corriere dello Sport. Sì. Arrivano i campioni. A sinistra con Dombia, io l'Inter la sognavo da sempre. E a destra Mario Mandzukic, tifavo per la Juve da piccolo. Sì, non l'avevo mai sentito. Ho fatto anche un tweet, fra l'altro adesso è pieno di gente che parla in croato, io non lo capisco, magari stanno insultando me, li saluto comunque, siamo in missione di pace. No, sì, ma insomma, sai, qui secondo me ci sono, bisogna fare auto, bisogna io fare outing. La sognavo da outing, sempre. Perché io ci sono i calciatori, appena piccolo. Ho fatto il tweet tutti mi hanno detto sì, ma infatti, ma che schifo questa frase di circostanza, ma che vergogna, ma insomma, ma ci prendono per cretini. È pure vero che ci siamo pure noi giornalisti, nel senso che adesso per esempio Maggio che ci avrà detto che la Juve gli è sempre piaciuta, che gli piaceva la maglia gli ricordava la prima maglia che ha indossato, capito, il bianco nero, però ecco, da lì il titolo diventa tifavo Juve fin da piccolo, cioè dai, anche pure noi giornalisti posso dire siamo... che io impazzisco quando vedo Ibra che cambia una maglia all'anno, ma sì, e la bacia, ma lì ci fu Sceva, no? Sceva fece scalpore col bacio alla maglia del Chelsea nella Community Shield, nella prima partita del primo gol. Però insomma, io ho baciato più magliette. I calciatori spesso sono un po' paraculi. No, c'è detto Fili Verdone. Cos'è paraculo? Paraculo è un avverbio. Cioè lui che deve spiegare alla ragazza, insomma, in maniera educata, che cos'è paraculo. E paraculo dice un avverbio. In realtà i calciatori sono un po' paraculi, pure noi giornalisti delle volte. Insomma, certe cose le tiriamo un po' per la giacchetta, per cui ti basta dire, no? Quante volte abbiamo visto dei titoli di giornali, soprattutto sul mercato, magari i giocatori nelle rassegne internazionali, la domanda del giornalista in realtà è: ti piace il Napoli? E quello dice sì, certo, una bella squadra. E già dopo il titolo è Napoli arrivo, oppure, cioè, oppure Idea Napoli. Oppure l'ho sempre Napoli sognato. Per dire una squadra, l'ho sempre sognato. Però io dico, a me fa impazzire, e lo dico, lo confermo, mi fa impazzire Ibrahimovic quando cambia maglia e se le slinguazza tutte. 8-0-0 24 ma giustamente tifiamo tutti per noi stessi, dai. Così come mi fanno diventare pazzi quelli che non esultano quando fanno gol contro l'Europa. Quella è assurdo. Quella è assurdo, però lì devo dirti la verità, è assurdo, ma non siamo pronti. E molto spesso anche i tifosi, che per me sono la componente migliore del gioco, perché senza tifosi il calcio non esisterebbe, che ci mettono i soldi, la passione e tutto il resto, e lì pure noi forse non siamo preparati, nel senso che poi tante volte questo discorso, che è giustissimo in linea teorica, però poi se esulti hai dei problemi, ti rompono le scatole. Sì, vabbè, è assurdo che sia così, perché è chiaro che allora, però manchi di rispetto ai tuoi, ma assolutamente, ma assolutamente, assolutamente. Allora, ci fermiamo per la borsa, poi torniamo insieme, magari torniamo anche sul caso Catania. Ah, 8-0-0, sì. C'è Bodi. 8-0-0, perché non lanciamo le cose 0-0, qua? 0-0, se poi non ci rispondono facciamo una figura. Vabbè, ma non è vero, c'è Bodi che ci risponderà, se non ci risponde 8, perché 0, 0, non ci ha risposto. 4-0-0-24, fatevi Ricepardo, chiamate. C'è Bodi, fa. È sicuro? 100%? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... Tutti convocati. E gli ho detto, guarda, c'è un discorso aperto, che ne dite? Ma, e lui mi ha dato, sia Cosentino che il presidente, mi hanno dato disponibilità in tutto. Non l'abbiamo riaffrontata, ma per me è come se fosse fatta, perché bene o male stanno mantenendo fede a tutto. È arrivato pure altri 1500 euro con la carta di credito, e noi non li potevo manco giocare. Niente, non fare, mi dispiace veramente. E c'è, mi dispiace, mezzo a me. Comunque, viva lo sport. Questi erano la prima tranche dell'Icarri e Arbotti, che è procuratore agente FIFA, e poi Impellizzeri, che è agente scommesse sportive Pulvirenti. Bah, non saprei che dire, Pierluigi Pardo. Io invece chiederei un parere, ma più che un parere, uno stato d'animo al commissioner della Serie B. Vedi che c'è? Andrea Bodi, c'è. L'abbiamo annunciato, ecco. C'è. Buongiorno. Ci sono. Come va? Io avrei molte cose da dire e le dirò, naturalmente. Certo. È chiaro che più passeranno i minuti o le ore e più le cose riusciamo a vederle in maniera più lucida, più nitida, perché l'unica cosa che si rischia in questi momenti è la perdita di lucidità, perché tale la rabbia e tale la voglia di reagire che l'unica cosa che non si può fare in questo momento è sbagliare il calibro. Di sicuro, deve essere chiaro, l'ho scritto anche in un comunicato che ho finito di battere, diciamo, di mio pugno, non daremo tregua. E comunque deve essere chiaro che la Lega all'interno della federazione si difenderà da chiunque cerchi di usare il calcio, e non ci sarà possibilità di scampo, perché ora basta. Io ho cercato, insieme a tutti quelli che lavorano con noi anche dentro le società, di dare il massimo, garantire il massimo dell'impegno, che non basta mai, perché su questo tema io l'ho sempre detto, anche nei momenti di apparente tranquillità, su questi temi non si abbassa mai la guardia, ma è evidente che il lavoro che stiamo facendo e che proseguiremo non potrà che arrivare fino in fondo, anche cambiando le norme, anche abbassando i profili di garanzia, perché ad essere troppo garantisti in certi momenti purtroppo si crea soltanto confusione. La gente ha bisogno di chiarezza, ha bisogno anche di essere garantita, ha bisogno di sentirsi dire dalle istituzioni del calcio che il lavoro prosegue, perché una partita qualunque essa sia, di qualsiasi categoria, sia il frutto del risultato del campo e non di un accordo sporco per motivi diversi. Non mi interessa neanche distinguere, perché non c'è distinzione, il giudizio deve essere sommario, definitivo, totale. E ancora oggi, per fortuna, per certi versi, rimane a testimonianza la richiesta che ho fatto al Ministro dell'Interno e attraverso il Ministro e i suoi uffici al Ministro della Giustizia per l'inasprimento in termini patrimoniali con il sequestro cautelativo e la confisca dei beni e l'inserimento della frode sportiva e della raccolta illecita di scommesse nella 231. Non è una risposta burocratica, ma è una manifestazione di volontà di andare fino in fondo. No, certo, il fatto è che truccare una partita di calcio è la condanna a morte, no? Cioè è la pena capitale, certo, per qualunque sport. Se tutto questo fosse confermato, cioè Catania avesse davvero comprato, perché di questo parlano i magistrati, 5 partite, cioè quelle di aprile, del campionato di Serie B per salvarsi, sarebbe un terremoto, no, per la Serie B, perché non c'è solo Catania, sono 6 squadre coinvolte. Ci sono dei tesserati di altre squadre, lo abbiamo visto dalle notizie che sono emerse nella conferenza stampa, quindi al di là del fatto che tendenzialmente io sono per la responsabilità individuale, ma sì, io in anche questo caso a me non piacciono i daspo di gruppo, ma è evidente che in questo caso, al di là della responsabilità diretta di qualcuno, a questa responsabilità corrisponde almeno una responsabilità oggettiva. Mi auguro che sia ancora più puntuale, perché a questo punto la rete dei rapporti è emersa in maniera chiara, sono coinvolte alcune categorie, diciamo, in maniera altrettanto chiara, dirigenti, agenti e calciatori, e al di là delle categorie ognuno ha un nome e un cognome che spero sparisca dai libri del calcio. Su questo non ci sono dubbi. Ci si sente un po' impotenti? La Lega di B ha fatto... No, impotenti no, perché sarebbe anche un segno di resa. Io non voglio proprio arrendermi, anzi, io voglio raddoppiare gli sforzi, ancorché fisicamente uno riesca a raddoppiare gli sforzi. Ma tutto quello che abbiamo fatto a tutti i livelli, che cercherò di raccontare soltanto perché rimanga agli atti, deve essere soltanto l'inizio di un lavoro che ricomincia da questo pomeriggio, perché noi dobbiamo garantire la continuità. E questo è il senso di una Lega, non è che deve garantire soltanto il presente, deve garantire il futuro. Non assolutamente. Siccome c'è una stragrande maggioranza di dirigenti, di calciatori, tecnici, operatori a vario livello, che sono onesti e lavorano con passione e competenza, io devo tutelare loro e prima di tutti devo tutelare milioni di tifosi delle nostre squadre e comunque appassionati di calcio, ai quali dobbiamo restituire, consegnare o garantire una competizione, qualunque essa sia, pulita. No, assolutamente. Mi riferivo anche al fatto che voi, attraverso la scelta di una formula con dei playoff molto allargati, insomma, in qualche modo vi siete posti qualche anno fa il problema della... Ma noi ci siamo posti il tema della qualità della competizione. Dentro questo concetto c'è anche la regolarità della competizione. La qualità dipende non solo dalla regolarità della sua credibilità, ma anche dalla sua incertezza, dal fatto che fino all'ultimo si giochi per un obiettivo. E non era un caso che 11 partite dell'ultima giornata, cioè tutte, avessero per in tutti gli 11 campi qualcosa da dire e qualcosa da dare. E pensavo che quello fosse un sufficiente deterrente, elemento di garanzia. Evidentemente non basta, perché quando ci sono delle menti malate che non capiscono anche il senso della responsabilità che hanno, è evidente che non c'è formula che tenga. E bisogna anche ringraziare, tutto sommato, perché io non sono per la polvere sotto il tappeto, che per una serie di circostanze, magari anche fortuite, questa cosa sia uscita, perché serva soprattutto per il futuro, perché per il presente ci sia quella intransigenza che ho richiamato e per il futuro ci sia almeno la giusta deterrenza, che se le cose vengono fatte vengono scoperte. Questo deve essere il primo elemento di cautela. Mi sembra abbastanza sicuro del fatto che comunque dietro queste intercettazioni, dietro questi arresti, qualcosa ci sia. Cioè, io e Pardo prima parlavamo di garantismo, del principio sacro, la presunzione di non colpevolezza, però qui mi sembrano talmente chiare le cose che anche lei ne pare convinto, no? Sono straconvinto e lo ero già da qualche tempo. Io sono convinto che nei momenti di difficoltà estrema purtroppo qualche garanzia deve abbassarsi, perché c'è una garanzia superiore che deve essere tutelata, quella dell'interesse generale. Sì, no, ma questo è assoluto. Quali sono i prossimi passi? I prossimi passi, intanto già abbiamo dato mandato al nostro consulente legale che segue tutta la parte penale, che ci ha consentito di presentarci come persona offesa e parte lesa anche a Cremona, riconoscendo per la prima volta nella storia giudiziaria la Lega come soggetto di garanzie di tutela dell'interesse generale, perché si mette in contatto e a disposizione nei confronti dei magistrati. Questo come primo dato. Mi auguro di poter sentire anche il presidente Cantone, perché anche con l'autorità anticorruzione vogliamo comunque stringere rapporti che ci consentano di collaborare e di avere collaborazione, perché da soli queste battaglie non si vincono. Quindi c'è bisogno del supporto da parte di tutti i livelli istituzionali. Siamo in contatto con la federazione, credo che dovrebbe essere convocato un consiglio federale a breve, probabilmente anche alla fine di questa settimana, quindi entro venerdì, e parleremo anche di questo, evidentemente, perché una risposta deve essere una risposta del sistema nel suo complesso. Da soli, come ho detto prima, non si va da nessuna parte. Un attimo. Fa abbastanza impressione dal punto di vista personale. L'ultima volta che ci siamo visti eravamo alla festa del Frosinone e fa veramente il contrasto Frosinone, Carpi, qualunque squadra, qualunque città. È veramente stridente il contrasto fra l'entusiasmo, la genuinità del sentimento per il calcio della gente che paga il biglietto, e che poi di fronte a cose del genere secondo me potrebbe addirittura costituirsi parte civile, ovviamente se venissero confermate. Qui c'è uno che mi scrive che cosa pensano le pay tv, chiaramente io non ho un potere di dire una posizione ufficiale, ma occhio e croce, è chiaro che le televisioni che spendono tanti soldi per il prodotto non possono essere felici di fronte a qualcosa del genere, anzi siamo tutti parte civile, ma prima di tutto i tifosi sono parte civile, ma certamente, no? Sì. Ma certamente sì, e tant'è che la nostra posizione a Cremona, così come sarà adesso a Catania, come sarebbe ovunque, è proprio quella, forse è una presunzione, di determinare un primo livello di tutela degli interessi generali, che poi gli interessi generali siano prioritariamente per un fatto associativo quelli dei club puliti, ma per me vale per tutte le cose che ho sempre detto, come sapete, l'interesse di tutelare i nostri tifosi indipendentemente dal colore della maglia. No, perché poi forse la chiave è dal punto di vista anche giuridico diventa quella, cioè se passa il principio che nel momento nel quale si viene accertato, ovviamente ricordiamo la presunzione di innocenza, per carità, che un illecito sportivo ha un effetto sugli scommettitori che sì, hanno giocato una partita, hanno speso dei soldi e non hanno incassato perché si sono giocati la partita per un risultato giusto, sui canali televisivi risarciscimi del valore di questa partita, degli abbonati allo stadio, di quelli che hanno comprato il biglietto. Se tutto questo in qualche modo diventasse qualcosa che deve essere risarcito da parte di questi signori, forse le cose cambierebbero. Non so se sia fattibile dal punto di vista giuridico, però mi sembrerebbe un bel deterrente. Nel momento in cui abbiamo chiesto, come ho detto prima, di inserire tra le pene che sono state già aumentate, come sapete, per frode sportiva, anche il sequestro preventivo e la confisca dei beni, andiamo esattamente in quella direzione. Certo, perché certo, tanto ho capito certo, che certi certo, mondi solo su quel versante acquisiscono una sensibilità, perché anche il tema della squalifica evidentemente non basta. No, certo, è chiaro, si deve andare sui soldi. Dopodiché qua il tema fondamentale è che è successo anche in altri sport, no, dove alcune patologie comportamentali hanno portato al dubbio cosmico, ma sarà vera quella prestazione? Così vale per un errore nel calcio, cioè, ma chi? Ma perché il rischio grande è che si metta in discussione il diritto che ognuno dei protagonisti ha di poter sbagliare serenamente. Può valere per un calciatore, un allenatore, un dirigente, ma pure per un arbitro, tenendo fuori la categoria che è totalmente lontana da questi temi. Cioè l'errore deve essere una condizione umana, il diritto alla sconfitta, certo. Il diritto all'errore, diritto, facciamo diritto traffico, rimaniamo un attimo al presidente, ci aspetto sì. 30 secondi 30 secondi traffico. Anche perché vorrei anche chiedere una cosa sul Parma, esatto, che scompare nelle sabbie mobili della Serie D. Ormai l'ho ingolato, è cambiato il diritto, l'anno prossimo arrivo prima. Tutti convocati. Convocati. Ed ecco il fischio finale del signor Assemate. Parma batte Anversa 3-1 nella finale della Coppa delle Coppe con gol di Ninotti all'ottavo, Nelli al 29esimo e Cuoghi al 38esimo del secondo tempo, ai quali la squadra tecnica oppone il gol di Severes all'11esimo, e il Parma conquista il suo primo alloro qui siamo andati molto indietro. Primo trionfo internazionale del Parma nel 93, però è notizia di oggi quella del Catania, di ieri quella del Parma, che scompare dalla Serie B, scompare dal calcio professionistico e sprofonda e ricomincerà dalla Serie D. Andrea Bodi, commissioner della Lega B, un suo parere anche su questo. Bene, è un'altra pagina dolorosa, di altra natura, ma comunque la grande amarezza che non si è consumata ieri con la resa da parte dei curatori, diciamo, si è consumata nei mesi nei quali quel numero lì indefinito, indefinibile, si è impostato a tal punto da rendere insostenibile ogni ipotesi di salvataggio. Siamo intervenuti successivamente, abbiamo modificato le norme, le abbiamo inasprite, abbiamo individuato a livello federale dei nuovi indicatori sulla liquidità, sulla consistenza patrimoniale, abbiamo inserito nuove norme sulla l'onorabilità di nuovi soci e su, appunto, la sostenibilità finanziaria delle ipotesi dei nuovi progetti societari. Da un lato il rimpianto di essere arrivati dopo, però la consapevolezza che adesso diventa veramente difficile che un nuovo caso Parma si riproponga. Si possa verificare. Sì. E poi c'è un dato importante che sta emergendo, è successo a Parma, è successo da stamattina anche a Catania, che i tifosi per primi hanno voglia di ricominciare anche dalle retrovie, tra virgolette, perché sono i primi che vogliono comunque un calcio pulito e credibile, proprio nel rispetto di queste persone che dobbiamo metterci al lavoro e raddoppiare gli sforzi, perché sì, sì, a volte è meglio fare due passi indietro per poi ricominciare il cammino. Sono d'accordo e non faccio fatica a credere, è successo anche in altri sport. Pierluigi, hai ancora qualcosa da chiedere? Mi sembra che il quadro sia già abbastanza deprimente. Sì, è deprimente, però noi dobbiamo cercare di associare la fermezza, ma non a parole, nei fatti, quindi poche parole e pedalare. Associare questo elemento che deve essere di tranquillità e di garanzia con la consapevolezza che però c'è tutto un mondo enorme, sterminato di gente, di società per bene, perché richiamo quello che ho sempre detto, il daspo di gruppo non è la politica giusta, il giudizio sommario è soltanto figlio dell'ipocrisia, quindi avere la capacità chirurgica di prendere le persone, circoscrivere i contesti, esprimere delle valutazioni, possibilmente espulsione a tempo indeterminato, e continuare a lavorare con quelli che stanno lavorando da sempre bene. Noi abbiamo fior di imprenditori, comunque di società piene di dirigenti, tecnici, allenatori e calciatori per bene, e io non vorrei che il giudizio fosse poi collettivo. Questo è importante. Sono d'accordo, perché tutte le volte sentire dire tutto il calcio è malato a me dà un fastidio pazzesco. Grazie. Tutti convocati, ma non tutti sporchi. Bravissimo, grazie Presidente. Grazie, grazie a voi, grazie, buona giornata. Andrea Bodi. Grazie. No, è vero, a me dà un fastidio pazzesco. Ci scrivono mille cose, già finito il vostro garantismo, ci chiede Carlo Di Odi. No, garantismo rimane, lo ricordiamo, sono chiaramente innocenti, però insomma ci sono delle intercettazioni che il problema lo pongono, ovviamente. E quindi non è questione di non essere più garantisti. Da un punto di vista formale e anche di sostanza. Le parole di Abbodi sono sembrate molto dure, eh? Cioè, assolutamente, sono parole molto dure che adesso chiaramente verranno poi rilanciate dalle agenzie, troverete sui giornali. Io credo che si debba togliere che la chiave sia quella economica, che facevamo prima, il discorso che facevamo prima, cioè nel momento nel quale un calciatore considera il mettersi d'accordo con un altro calciatore quasi una goliardata, come era 20 anni fa o 30 anni fa, i libri di storia del calcio, insomma, le leggende metropolitane sono piene di questo genere di roba, no? I biscotti, le situazioni di questo tipo. Nel momento nel quale questa cosa qui invece finisce per ledere di fatto economicamente, in caso di inchiesta, i diretti interessati non la fanno più, secondo me. Solo che non è facilissimo come meccanismo da disinnescare. Tony, Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Io sono un tifoso del Catania. Ho sentito l'intervento del presidente Abbodi prima, che parlava di pene inasprite e via dicendo, ma cioè, il vero deterrente non sarebbe quello di eliminare, almeno sulla Serie B e la Lega Pro, le scommesse? Io sono dell'idea che si scommetta troppo in generale, cioè nel senso che secondo me ci sono delle scommesse, secondo me le scommesse dovrebbero avere una rilevanza su qualcosa di oggettivo. Cioè, per esempio, la scommessa sul primo tempo, secondo me, è una potenziale porcata. La scommessa addirittura sul primo calcio d'angolo, sul numero di gol pari o dispari. Cioè, scommesse che non riguardano strettamente il risultato sportivo, secondo me, sono molto rischiose, ovviamente. Perché tu puoi avere un beneficio economico senza che però tu debba concedere, dal punto di vista poi del risultato finale della partita, qualcosa di questo tipo. Per me si scommette troppo, in assoluto. Detto questo, quando non c'era, quando le scommesse non erano legalizzate, c'erano quelle illegali, c'era il toto nero, che era pure peggio, perché era pure gestito, manco pagavano le tasse ed era pure gestito, non si sapeva bene da chi. Quindi mi sembra che la lotta contro le scommesse mi sembra complicata, mi sembra come chi ce l'aveva con la TV a colori, capito? Cioè, cercare di lottare contro qualcosa con le mani, fermare l'oceano con le mani, mi sembra un po' complesso. Anche perché non è solo una questione italiana, ormai è una questione internazionale, no? Cioè, è una questione che riguarda tutto il mondo, perché tutto il mondo scommette sulle partite di tutto il mondo. Questi famosi traffici strani, flussi strani di scommesse dall'est asiatico, che tante volte sono. Insomma, è un problema grosso, che non riguarda, da quello che sappiamo, anche soltanto il calcio, ma riguarda anche il tennis, per esempio. Questa è una parte del problema. Ma qui, semplicemente, secondo me, è far sì che l'illecito sportivo, come ha detto giustamente a Bodi, non porti soltanto alle scommesse, ma abbia una rilevanza economica sulle persone che fanno questo illecito. Che poi, dal punto di vista tecnico, ci sta, perché ripeto, nel momento nel quale io ho comprato il biglietto per una partita e questa partita era truccata, qualche diritto dovrei avercelo di veder riconosciuto fatto. O se la tu l'hai comprata la televisione, che paga una partita a 15 milioni di euro e questa partita è una partita, una messa in scena, io ti posso chiedere 15 milioni perché mi hai truccato la partita. Quindi, nel momento nel quale parte questo meccanismo, ripeto, non facile, a quel punto, secondo me, poi stanno tutti molto più attenti. C'è questione di cultura, ci scrive un 347. Stai altri 10 minuti che rispondiamo a un paio di ascoltatori. Sì, poi c'è Torrini, no? Poi c'è Leo, sì. Dopo Gerard, hai detto a Bodi e c'era. Non è che perché qui c'è la tradizione che se annunci l'ospite porta sfiga, come quelli che al mare chiamala si se vuoi, fa fresco al mare, ti levi la maglietta. Sai com'è con i telefoni, no? Ne sai qualcosa. Esatto. GR. Tutti convocati, ma non tutti sporchi. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Index Papu. Sono le 15. La Chiesa apre ai divorziati e ai gay, se ne discuterà al sinodo di ottobre. Indagati anche alcuni Se ti piace il gastronaut e ti piace anche il panettone, non perderti la possibilità di vivere da vicino la diretta del mio programma domenica 28 giugno a mezzogiorno. Saremo proprio qui, nell'auditorium del gruppo 24 ore, durante la 2 giorni dedicata al panettone tutto l'anno e ci divertiremo a festeggiare insieme l'arrivo dell'estate con il dolce simbolo di Milano. Prenota il tuo posto sul sito radio24.it. Che dire, arieccici. Tutti convocati. Torniamo, qui con me oggi Pierluigi Pardo. Eccolo di che, che meraviglia. Marco Bari, buongiorno. Giancarlo Udine, buongiorno. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. A lei, dica. Io volevo semplicemente capire dove... Io chiamo da Bari, quindi noi siamo stati coinvolti qualche anno fa in qualcosa di simile, va bene, anche se... Poi la responsabilità oggettiva della squadra non fu messa di mezzo, però dei giocatori che sono stati dichiarati colpevoli oggi continuano a giocare, e questo io qua non capisco, io qua perdo la bussola. Quando il presidente parla di pene sicure, allora un giocatore che si è venduto le partite, sappiamo che si è venduto le partite, continua a giocare in Serie A. Sappiamo tutti a chi faccio riferimento. voglio capire perché da una parte si dice sì, pene più aspre, e dall'altra i giocatori che si sono venduti continuano a giocare. Guarda, io sarei, allora stiamo parlando del caso Catania, del fatto che Catania avrebbe comprato, giusto per essere chiari, 5 partite ad aprile contro Varese, Trapani, Latina, Ternana e Livorno. E abbiamo sentito prima il presidente Abodi e io sarei per la radiazione. Sì, sì, anch'io. Anch'io. A costo di essere draconiano, il motivo per rispondere al nostro ascoltatore, il motivo per il quale credo riferimento fosse a Masiello, ma non soltanto a lui, insomma, per cui i giocatori che vengono squalificati poi tornano a giocare perché hanno scontato la squalifica. Quindi è esattamente come una persona che compie un reato, si fa un certo numero di anni in carcere e poi torna a vivere, è lo stesso principio. Poi posso essere d'accordo con te che insomma grandi garanzie, sono, grandi garanzie, le leggi che ci sono, questo è chiaro, eh. Però insomma anche il ladro, anche colui che ha rubato, uno può avere il sospetto che anche dopo il carcere possa ricadere nello stesso reato. Ci sono casi da questo punto di vista, quindi è un po' lo stesso discorso, è il discorso di una pena che non è una pena definitiva, non c'è l'ergastolo inteso come radiazione. Certo. Ci sono delle norme che dicono, posso che, essere d'accordo con lei sull'inasprimento delle pene, ma io credo, ripeto, soprattutto che la parte civilistica della materia, la parte legata alla responsabilità economica della materia dovrebbe essere quella fondamentale, perché non sono tanto le squalifiche quanto è secondo me la paura o la possibilità di trovarsi di fronte a dei risarcimenti che ti riducono a pezzi. Sì. E il meccanismo sarebbe quello appunto di rendere parte lesa e quindi con possibilità di risarcimento danni tutta quella serie di soggetti e di comunità, dai tifosi che hanno pagato il biglietto, alle televisioni, a tutti, agli scommettitori, tutti quelli che in qualche modo su una partita taroccata finiscono per ricavare un danno. Sì, e di converso io sarei invece per la radiazione in casi come questo, cioè di partite, di vendita, di commercio di partite, sarei per la radiazione in caso di doping, cioè ti prendono una volta e hai finito. Perché anche quello è un fronte economico, eh? Cioè, ti tolgono, certo, la possibilità. Comunque, se imbrogli, è sempre se commetti un reato capitale, esatto. Se commetti un reato capitale di questo tipo, ti tolgono la possibilità di svolgere. Sulle partite taroccate, secondo me, ripeto, bisogna uscire dalla. Insomma, diciamocelo apertamente, tante volte parlando con degli ex calciatori in delle scene ti raccontano episodi di 20 anni prima su partite taroccate, pareggi, gente che si mette. Quindi questo fa parte, drammaticamente, non lo dico difendendo il discorso, fa parte di una. Di una certa idea che è esistita. Ecco, questa idea non può esistere più, anche perché il calcio è cresciuto tanto, è diventato qualcosa di molto diverso. Cioè, taroccare una partita oggi, proprio dal punto di vista degli interessi che muove una partita di calcio, economici e non soltanto economici, non è come una partita di Serie B del campionato di 30 anni fa. No, chiaro. È qualcosa di completamente diverso. E quindi, e con un livello di visibilità mediatica e giustamente anche di indagini molto più forte, insomma. E quindi credo che la chiave sia questa qui. Bisogna uscire da quell'era lì, sì, sì. E entrare in un'era in cui chi sbaglia paga. E perché le. Ma paga, non c'è niente serio. di più assurdo, di più anticalcistico, di più tremendo per il gioco del calcio di qualcosa di questo, no? Antisportivo e per il mondo dello sport. Assolutamente. Giancarlo Udine. Sì. Dica. Buongiorno, grazie. Non vorrei che voi faceste le casse di risonanza alla sfilata delle verginelle, no? Perché adesso ci sarà la sfilata delle verginelle su tutto il fronte, prima cosa. Secondo me il problema, il pesce puzza dalla testa, no? E come mai, chiedo, che per fare qualunque tipo di attività, per aprire un negozio, per fare un artigiano, tutti devono avere un titolo. Qui invece basta che uno si svegli la mattina, pensi di avere 2 lire, vedi caso Parma, pensi di avere 2 lire e può fare il presidente tutto quello che ne comporta. Perché c'è la libera. Direi che voi mi diceste qualcosa. Sì, no, guardi, perché c'è la libera iniziativa, cioè non è che se Ghirardi o Pulvirenti o non lo so, faccia lei i nomi, o Berlusconi o Moratti o Agnelli vogliono comprare un'azienda siderurgica, si compra un'azienda siderurgica. Se vogliono, cioè non è che il calcio da questo punto di vista sia diverso, sono società, sono aziende. Una volta che tu acquisisci la maggioranza o comunque il controllo, hai quel potere lì, cioè non mi sembra da questo punto di vista così anomalo. Non è che per forza devi aver fatto al liceo il perito calcistico per poterti comprare una squadra di calcio. Questa mi sembra una cosa. Sono d'accordo sulle verginelle, cioè in tutti questi anni abbiamo assistito nelle ultime giornate di campionato tante volte a delle partite che erano delle partite che puzzicchiavano, no? Perché comunque c'era una differenza fra l'impegno di una squadra e l'impegno dell'altra abbastanza clamoroso. Abbiamo sottolineato in positivo, io l'ho detto circa 1000 volte, molto ripetitivamente, che negli ultimi anni, dopo questo nuovo filone di scommesse, guarda caso, delle ultime partite in generale sono molto più incerte, più serie rispetto a qualche anno fa. Vedi squadre già salve che si impegnano. Ma io sono d'accordo con lei, cioè il problema rimane, e secondo me l'unica soluzione è quella lì, cioè far sì che se per qualche motivo si rimane impigliati in un'inchiesta di questo genere, cioè voglio fare un favore, non ho niente da chiedere all'ultima giornata, voglio fare un favore ai miei avversari eccetera eccetera, nel momento nel quale faccio qualcosa di illecito devo pagare pesantemente dal punto di vista patrimoniale, se no non ne usciamo, secondo me. Ed è fondamentale anche quello che dice Abodi, poi il diritto alla sconfitta, il diritto a sbagliare, perché questi scandali qui poi portano i tifosi in certe circostanze a pretendere la vittoria, a pensare che se la squadra va male è perché si vendono le partite, perché si sono impegnati poco. Invece esiste un diritto alla sconfitta, no? Esiste un diritto alla sconfitta, esiste un diritto all'errore. Ciao Leo Turrini, guarda un po' chi c'è. Oh, buongiorno, ma era Pardo quello che parlava di Verginelle. Ma ci sono le scommesse sulle gare di Formula 1? Ti voglio dire, gli scandali ci sono stati? Sono state abolite perché i risultati ormai sono sempre uguali. Seconda Mercedes. E allora lì sai, c'è poco da andare a fare la scommessina, hai capito? Ma c'era qualcuno che si vendeva le gare? Hai mai sentito qualcuno che si vendeva le gare? No. C'è stata la famosa storia di spionaggio del 2007 per la quale la McLaren venne espulsa dal mondiale dei costruttori, e poi ci sono i giochi di scuderia, vabbè, allora tu devi lasciare passare il tuo compagno che è messo meglio, ma anche lì ci furono poi delle proteste in tutto il mondo. Non so, vi ricordate quando Todd in Austria fermò Barrichello un giro dalla fine per far vincere Schumacher? Le agenzie britanniche delle scommesse minacciarono delle cause miliardarie, dopodiché allora questa procedura in teoria sarebbe proibita, ma in realtà poi, ma no, proprio gente che si vaga, perché vendersi a 300 all'ora. Però io volevo dire un'altra cosa, volevo dire un'altra cosa al mio amico Pardo che parlava di Verginelle. Sì. Bisogna chiudere le frontiere, ma non quelle del calcio come qualcuno sostiene. Mi sembri Hollande, chiudere no. le frontiere per impedire che Sergio Marchionne vada anche al Gran Premio d'Inghilterra il prossimo 5 luglio. Perché voglio farvi notare, caro Gritta e caro Bardo, sì. non è vero, ma ci credo. Che non occhio, è Malocchio, Prezzemolo e Finocchio e tutti i vari film di Franco e Ciccio e compagnia bella, due volte nella stagione. Il presidente Ferrari si è materializzato in box per la gara Canada e Austria, e sono le uniche gare della stagione nelle quali la rossa non è salita sul podio. Ora questo è il vero problema: abolire Schengen, bloccare le frontiere, impedire che con un Jeep Cherokee Marchionne possa arrivare a Silverstone. Invitatelo voi che siete la radio di Confindustria a restarsene a casa, se ne guardi in televisione, ecco fatto, magari registrate, magari indifferita, in modo che, per carità, io non voglio dire che certi poteri giungano a tanto, però si tratta di coincidenze, come direbbe il mio amico Pardo commentando i risultati della fase finale del campionato. Ho sentito quello che diceva prima, no? Certe concomitanze, squadre che perdono all'improvviso, partite con molti gol, no? Perché poi magari ci punta sull'over, tutte queste cose. E vabbè, siamo invece in Formula 1, ve l'ho detto, non si scommette neanche più. Prima Mercedes, seconda Mercedes. Seconda Mercedes. Senti, ma non dirmi che è colpa di Marchionne anche il weekend surreale del tuo idolo Kimi Raikkonen, perché è stato surreale. Ma qui tu vieni surreale. Proprio come sempre, vieni come sempre a infilare il coltello nella piaga. Peggio di così era veramente impossibile. Sì, no, io voglio scagionare Marchionne da questo. Non è meno male. No, su questo no. Io credo che intanto si debba tener conto del fatto che il mio idolo, perché io non sono affatto pentito, sono un ferrarista di rito raiconiano, il mio idolo Kimi, secondo me, è danneggiato dagli orari, perché queste qualifiche tra le 14 e le 15, no? Si è appena alzato da tavola, hai capito? Se magari anche, voglio dire, preso il digestivo, no? Poi ci sono queste cose e le comunicazioni via radio dal muretto della Ferrari verso Raikkonen e viceversa misteriosamente non funzionano mai. Quelle di Vettel sono perfette, ultra digitali, no? Proprio non c'è neanche un fruscio. Quindi, sì. Ad esempio, il sabato lui è andato a fare il tentativo pensando di avere 3 giri a disposizione, ne aveva solo 2. Quando gli hanno detto il tempo è scaduto, lui sembrava un concorrente di Mike Bongiorno e Rischia Tutto, no? Che diceva: no, ma come? Mancano ancora 10 secondi. È un momento un po' così. D'altronde, sai, io rimango sempre della mia tesi, molto cara anche a Pardo e alle sue vergine. Ma voi pensate veramente che il problema della Ferrari nei confronti della Mercedes sia chi guida la macchina o il problema è la macchina? Vabbè, ma è la macchina, questo allora, non si discute qui, moltissimo, no? Non c'è molta discussione. Noi che faremo chiudere Schengen, sì, perché non vogliamo Marchionna Silvestro, e da qui a cascata discende tutto il resto. Se si pensa che ci sia l'esigenza di sostituire uno dei piloti, per carità, possiamo trovare uno più giovane, uno magari anche... uno diverso, sì, uno, chi vuoi tu, però non pensare ad andare più forte, questo è evidente. Sì, però, ripeto, la priorità assoluta della Ferrari, di Marchionne, di Arriva Bene, deve essere quella di migliorare la vettura, perché ancora adesso, in qualunque pista, in qualunque condizione, che piove o che ci sia il sole, la macchina, che non sta andando male rispetto all'anno scorso, ma va un po' più piano, sì, ecco, voglio essere delicato, delle frecce d'argento, che vogliamo fare? Mettiamoci Hulkenberg, la Ferrari che da rossa diventa verde, no, facciamo un fumettone, una roba di questo tipo. Però più forti, no, però non si va più forte, Leo. No, ma infatti il punto è quello. No, cioè, no, ma è chiaro, adesso il problema è guardarsi le spalle dalla Williams, che è cresciuta, eccetera, perché è chiaro che quelle altre due davanti non le pigli più, sì, per no, questa stagione, magari anche per la prossima. La verità è esattamente questa. Allora, per la prossima io invece spero che la Ferrari possa avvicinarsi ulteriormente, però ripeto, occorre concentrare tutte le energie su quello che è lo sviluppo. Tra l'altro c'è una cosa buona, ed è che questo Vettel veramente sta mantenendo tutte le promesse, non solo come vero, ma è proprio un leader. Io l'ho sentito anche domenica, che per quella storia lì, il dado, cioè alla Ferrari il dado non è mai tratto, contrariamente a Giulio Cesare, non si capisce, la seconda volta che capita nella stagione si spala il dado, si sfiletta il dado. Alla Mercedes i dadi da brodo funzionano sempre alla perfezione, anche questa è una cosa sulla quale bisogna lavorare, capito? Però mi è piaciuto molto, dicevo, che Seb alla fine abbia detto: beh, io comunque sono orgoglioso della gente che lavora con me, per me a volte sbaglio io a fare una curva, può sbagliare anche un meccanico a tirare via un bullone, lui ineccepibile in questa stagione, elegante, sì, elegante. Molto molto molto positivo, devo dire che bisogna costruire sul talento, sul carattere di questo personaggio. Sì, sono d'accordo. Senza scomodare il solito paragone, va bene, Schumi, 20 anni fa, non si può andare avanti, no, a vivere di suggestioni di questo tipo, però questo qui sta dimostrando sulla pista e anche quando è fuori dalla macchina di essere uno con la testa. Vettel è come Pardo in televisione, gente alla radio, capito? È uno che ci si può fidare. Grazie. Siete tra voi tre, con Seb siete numeri uno. Io sono un Raikkonen, insomma, faccio un numero, hai capito? Grazie, Leo. Ciao. Un grande abbraccio, amici. Ciao. C'è Massimo Mauro che ci ha chiamato. Ciao Massimo. Ciao, come va, professor Gente? Bene. Parte la giornata, insomma, diciamo, nella quale si è parlato poco di calcio. No, volevo dire una cosa, perché io vi ascolto spesso. Volevo dire una cosa, siccome ho una stima infinita, Pier, no, di te, per come fai il giornalista, per come fai il commentatore, per come fai tutto, al signore di Parma che ha telefonato e ha posto il problema a chiunque può diventare un presidente di una squadra di calcio, io non avrei detto che non bisogna fare il perito calcistico per prendere una squadra di calcio, perché... adesso non ricordo il nome di chi ha comprato il Parma per 1 euro, se la federazione non controlla questi passaggi di proprietà, che ci sta a fare? Aveva pienamente ragione il signore di Parma. Cioè, quando il passaggio di proprietà di una squadra che ha 200 giocatori, 20 milioni di debiti, paga stipendi per 30-40 milioni di euro all'anno, passa di proprietà per un euro, c'è qualcosa che non va. Questo, la federazione ha il dovere di controllare questo e di impedire che questo possa avvenire. No, Massimo, il mio riferimento era al fatto che esiste la libera iniziativa per cui una singola persona può comprare una qualsiasi società. Il paradosso, ma ne abbiamo parlato mille volte, mi ricordo addirittura Alessandro Lucarelli che fece proprio questo esempio, è che se tu oggi vai a comprarti una macchina al concessionario ti chiedono una fideiussione, 500 bolli, garanzie di tutti i tipi, e poi è stato possibile comprare il Parma per un euro. Che ci sia un problema di omesso controllo non c'è assolutamente discussione, però il fatto che chiunque, senza avere chissà quali requisiti, diciamo, di carattere di studio, di riconoscimenti di un certo tipo, possa acquistare una società di calcio, rientra nella tutto qua, certo. Se hai i soldi va a compra, ma deve avere i soldi e sistemare. Ma no? Tu la questione delle scommesse, delle partite truccate, ovviamente ha ragione anche quel signore lì, io lo vorrei conoscere quel signore lì, sono tutti Verginelli, sono tutti noi che siamo nel mondo del calcio da 30 anni conosciamo che almeno dal punto di vista sportivo c'è sempre stato qualcosa che non andasse nei finali di campionato. Ultimamente qualcosa è migliorato, ma come insegna adesso la storia di Catania, forse siamo stati troppo ottimisti a dire che qualcosa è migliorato. Allora, secondo me, proprio noi che parliamo di calcio in TV, alla radio, abbiamo il dovere di dire: guardate che è vero, purtroppo siamo stati ottimisti, la questione non è ancora risolta. Però il fatto che adesso la federazione deve controllare, non può dire quello che ha detto su Parma ancora la federazione l'altro ieri. È vergognoso, a mio avviso, che non dica parole definitive chi controlla il mondo del calcio. Questo è il punto. Sì, che sia stato un problema di omesso controllo, l'abbiamo sottolineato fin dalla prima ora, questo del Parma. Però anche il fatto che nel calcio ci siano ancora quelli così fessi da fare ste cose, e adesso è difficile che non li becchi. Questo può essere un elemento di ottimismo, no? No, ma è quello che dicevo prima, Massimo, cioè esiste tutta una serie di leggende metropolitane più o meno vere su partite taroccate, su biscotti, anche la storia dei mondiali, il famoso Germania-Austria. Ma Parma-Napoli, Pier, è un'offesa alla cultura sportiva di un paese, è un'offesa. Parma-Napoli l'abbiamo vista sotto gli occhi di tutti quanti, non c'è nessuno che si preoccupa di dire guardate che anche se non c'è passaggio di soldi e non c'è accordo prima, quello che è successo in Parma-Napoli è stata una cosa davvero indecente. Perché? Perché c'è l'idea che siccome il risultato per una squadra è acquisito, non si deve impegnare. Sì, certo. Cioè, è una cosa che va e tutti siamo pronti a dire ma sì, dai, tanto ormai è andato in Serie B, che si impegna a fare. Cioè, questo è, come dire, il terreno su cui poi prolifera il malaffare nel calcio. Allora, quando non diciamo questo, ma siete visionari, siete troppo romantici. No, non siamo visionari, questo è il terreno su cui poi se qualcuno fa il furbo viene beccato. Sì, a dire la verità, però Parma non ha giocato una partita del genere solo con il Napoli. No, ha giocato tante di partite così. Io dico chi si è lamentato che Parma ha giocato partite del genere. No, ma assolutamente, dal punto di vista culturale non c'è discussione. Io sono dell'idea che rispetto al passato il calcio è cambiato molto, per cui il risultato accomodato in campo così per convenienza oggi ha delle... ma pensavo anch'io, ma l'indagine di Catanzaro e l'indagine di Catania purtroppo tornare indietro. Appunto, però secondo me quello che è cambiato è l'unica possibilità che abbiamo per cercare di pulirlo, e non ce l'abbiamo noi possiamo semplicemente dare un po' di risalto mediatico. mediatico, ma è più che altro appunto nel controllo della federazione e nel lavoro della magistratura, è il fatto che il calcio è cambiato in questi anni, quindi deve essere inevitabilmente molto più trasparente. Quindi quelle leggende metropolitane che tante volte a cena raccontano ex calciatori, no, sulla famosa partita, i pareggi, le cose, queste cose, insomma, le abbiamo sentite, poi magari tante volte non è vero, tante volte sono cose millantate. E oggi non può più funzionare così, perché oggi ci sono le scommesse, perché oggi ci sono comunque le televisioni che pagano, perché Perciò l'organo di controllo non può essere assente, può essere, come dire, avere un atteggiamento buonista. No, deve far rispettare le regole e soprattutto dovrebbe incominciare a mettere le regole. No, perché io voglio vedere quanto tempo passerà in questo sposo in pieno, come dire, le preoccupazioni di De Laurentiis. Non sono quasi mai d'accordo, ma su questo sì. Cioè, una cosa si deve fare. Se serve al mondo del calcio, non può aspettare tempi biblici. Certo. Si devono sedere e prendere la decisione di dire che nessuno può comprare una squadra a un euro. Certo. Ecco. Grazie Massimo. Grazie Massimo. Ascoltaci sempre. Ti ricordiamo. Convocazione, grazie. Chiama convocazione, che chiama altra convocazione. Quindi convocazione. Ciao, Pierino. 80024. Anna, è finita. Però domani. 80024. Vale 0024. Che cosa c'è adesso? Adesso è Ruggeri. Ah, il Falco. Il Gabbiano. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. E Alberto Melchiore in redazione, Giovanni Melchiore, no? Melchiore, Marchione, Marchione. Ciao, domani. Tutte puttanate.